9 in punto. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia. Insomma, oggi parliamo di quello che è successo ieri in Parlamento, ma in realtà non ne parliamo. E voglio partire da uno scambio di messaggi che ho avuto ieri con un ascoltatore, Stefano, su Facebook, il quale mi ha detto, gli ho chiesto di intervenire in diretta, insomma, se aveva voglia di parlare con noi. Ebbene, mi ha detto no. Proprio nel momento in cui va in onda la trasmissione sono in ufficio col mio commercialista per intraprendere il cammino della dismissione della mia azienda. Capirà, il mio stato d'animo certamente non è dei migliori, preferirei evitare in questo momento interventi e fare considerazioni in una trasmissione come la vostra. Non ho la testa lucidissima. Quindi, mentre ieri è successo quello che è successo, mentre si doveva discutere il decreto Ilva, mentre è successo quello che è successo, il paese è sempre nelle stesse condizioni. Dunque iniziamo evocando un nostro amico, quella voce che ci ha accompagnato per tutta la fase che è seguita alle elezioni politiche, questa voce. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire lei non siamo qui mica a vendere le noccioline, voi siete lì per noi, non per voi, ma fate qualcosa in fretta perché l'Italia sta morendo e io sono uno di quelli. Ed eccolo, Angelo da Bergamo, la evochiamo, se è in ascolto quando vuole ci chiami e risentiremo pure lei volentieri. Questo il quadro del paese, un paese come si diceva prima nel quale statisticamente falliscono 42 aziende al giorno, nel quale statisticamente si perdono 480 posti di lavoro al giorno, nel quale statisticamente abbiamo 2,75 adempimenti fiscali al giorno, un paese nel quale racconta benissimo la storia il Sole 24 Ore oggi in edicola, l'ultimo passo, l'ultimo no, uno degli ultimi no per il rigassificatore di Trieste è arrivato, ma sapete quanto ci hanno messo alla fine per dirgli il no definitivo? Ci hanno messo 9 anni. Questo è il paese. Antonino De Masi, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei fa impresa, ma non è che faccia impresa in un posto proprio facile. È una terra un poco complicata, per cui ci opero nella piana di Gioia Tauro. Nella piana di Gioia Tauro. Chiude l'azienda? Sì, io chiuderò l'azienda il 20 di luglio. Il 20 di luglio, perché prima aveva annunciato il 10, aveva detto che naturalmente avrebbe chiuso ieri, poi immagino che ci sia stato bisogno di farsi anche due chiacchiere con i sindacati, naturalmente, no, con i suoi lavoratori, no? No, i miei lavoratori sono totalmente a fianco dell'azienda con dei comunicati e delle posizioni molto chiari e forti, anche formali, e sono stato chiamato dal prefetto, il quale mi ha chiesto di spostare di 10 giorni la chiusura dell'azienda. Allora, la sua storia, la storia di Nino De Masi e della sua azienda, mette insieme due fatti, due questioni che riguardano il nostro paese. Una è la questione della criminalità organizzata e l'altra è la questione di una burocrazia che affossa, in questo caso collegata alle questioni che riguardano la criminalità organizzata. Perché? Perché l'azienda di Nino De Masi è sottotitolata dell''ndrangheta, in quel 12 aprile 2012, se non sbaglio, De Masi, 2013. No? 2013, 12 aprile 2013, che cosa è successo? Qualcuno ha avuto la fantasia di spararmi 44 colpi di Kalashnikov in azienda e più 2 proiettili messi in bella vista come messaggio chiaro e forte di quello che dovevo fare, insomma, ecco, questo è quello che è successo il 12 aprile scorso. E quello che doveva fare che cos'è? Pagare il pizzo o no, cosa? Guardi, non è dietro un messaggio criminale del genere, non c'è chi vive, chi capisce di queste problematiche sa bene che non è quello il messaggio, perché veda, quando le chiedono la mazzetta c'è tutta un'escalation di messaggi, quindi la lettera anonima, le sparano, le mandano un primo segnale, le mettono la bomba, non si usano le tecniche di guerra per fare un'estorsione. Il segnale che c'è dietro questa storia è molto più grave, perché veda, la mia famiglia da 40 anni combatte contro i criminali sapendo bene una cosa, cosa che io dico a tutti gli imprenditori, che per un'estorsione è difficile che si ammazzi qualcuno. Per cui la gente si impaurisce prima, gli imprenditori spesso si impauriscono prima e mollano, ma è difficile che il criminale ti ammazzi perché non gli hai dato 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 euro di mazzetta. Dietro quella mia storia che cosa c'è? C'è sicuramente un lavoro, dei lavori che noi abbiamo preso che hanno interrotto dei traffici illeciti, per esempio quelli di droga e compagnia del genere. Questa storia ha fatto sì che il messaggio doveva essere recapitato, doveva essere forte e chiaro, e quindi qui la tecnica militare. Dove si innesta il problema della burocrazia? Perché è di questo di fatto che lei alla fine, che la sua azienda è stata vittima. Si innesta nel fatto che lei ha richiesto quello che è previsto, ossia un mutuo agevolato per le vittime di racket ed usura, no? Sì, sì. Allora, questo mutuo agevolato quando l'ha chiesto lei? 2006, mi doveva essere concesso più o meno 6 mesi dopo la domanda. E invece niente? No, ho impiegato 7 anni, ho 14 provvedimenti dei tribunali amministrativi e Consiglio di Stato che mi danno ragione. Le danno ragione, e però dallo Stato questo il riconoscimento di questo mutuo agevolato non arriva. Ma si è capito come mai? Sì, guardi, questa è una storia molto molto particolare, perché è figlia di ignoranza da parte di pezzi dello Stato che non sanno, probabilmente hanno avuto difficoltà nell'accesso alle scuole primarie, nel leggere e nello scrivere, non conoscono le leggi, non sanno come si applicano e giocano con la gente, giocano dietro l'arroganza di avere un potere e un ruolo. Tenga conto che io l'altro giorno ho detto: signori, ci sono delle sentenze, non voglio discutere di nulla e di nessuno, qui c'è un problema molto chiaro, se questo è un mio diritto lo pretendo. Se non lo è, qualcuno mi spieghi perché non lo è, visto che ci sono 14 sentenze dietro le spalle. Qui sembra che probabilmente ci sia scaricabarile tra i vari uffici centrali e periferici, ma di tutta questa storia io mi sono rotto davvero le scatole, perdonatemi il termine, e ho detto: ora basta, non si può più vivere così, perché tenga in considerazione, stiamo parlando di norme, di leggi che devono tutelare le vittime di reati e hanno delle sue priorità che servono per la tutela dei diritti primari della gente, capisci? Che vittima. E questo era il nostro Parlamento ieri. De Masi, che effetto le fa? Che effetto mi fa? Guardi, non è un effetto che... Guardi, io ho fatto una telefonata molto drammatica ieri al prefetto. Io ho detto: eccellenza, io sono chiuso in una stanza, piangendo e disperato. Se io non avessi la robustezza della mia famiglia, io avrei trovato un ponte per buttarmi di sotto. Perché è inconcepibile. Io non so cos'altro fare per avere i miei diritti. Il prefetto mi ha detto: guardi, l'aiutiamo. Io ho detto: io non voglio aiuto. Guardi, io non chiedo elemosina, non chiedo aiuto, non chiedo assistenzialismo, chiedo rispetto delle leggi. E guardi, io nel nome di quelle leggi, di quei valori primari, io farò di tutto, farò delle cose durissime e ognuno si dovrà assumere le proprie responsabilità. Che cosa vuole fare? Che cosa vuole fare, De Masi? Ma guardi, io aspetto il giorno 20, ma le garantisco che se io entro il 20 non avrò quello che è un mio diritto, rinuncerò alla scorta. Rinuncerò a tutti quelli che sono, rinuncerò a tutto, mi incatenerò davanti all'azienda, non farò entrare nessuno nella mia azienda, la mia azienda la distruggo io da solo. Perché la distruggerò per crimini di Stato, guardi, per crimini non, attenzione, me ne guardo bene, perché tengo in considerazione che io, per vivere dove vivo, io, per me le istituzioni sono una cosa sacra, l'arma dei carabinieri, la polizia, la procura della Repubblica, la procura antimafia, tutti gli uomini che combattono la criminalità, io di quegli uomini ho il pieno rispetto, ma c'è un pezzo delle istituzioni, un pezzo dello Stato che fa di tutto per distruggere la vita dei cittadini. Ci sono delle leggi e se non vengono rispettate rispettate, guardi, io farò in modo che ognuno si assuma drammaticamente le sue responsabilità. Che questo messaggio sia forte e chiaro, perché questa vicenda, se qualcuno pensa di sottovalutarla, ha sbagliato nome e indirizzo con chi. Perché guardi, io qui un problema sono diritti, sentenze di tribunali che vengono violati da gente che è incompetente. 800240024 per intervenire in diretta, www.facebook.com/9in.radio24. Mi trovate anche su Twitter, Simone Spezia. Da qualche giorno c'è anche il blog sul sito di Radio 24. Antonio Bertolotto, buongiorno. Buongiorno, sono Spezia, come andiamo? Tutto bene, non sono dottore. Comunque, amministratore delegato della Marco Polo Environmental, ormai lo conoscete. E come me, come me. Ormai lo conoscete. È l'uomo che passa 2-3 giorni nella sua azienda e poi il resto cammina per l'Italia, sta andando verso giù, cammina per l'Italia, si sta facendo tutta l'Italia a piedi in questa lotta contro la burocrazia, il fisco, le leggi che opprimono le aziende. Ci arriva Gioia Tauro, Bertolotto? Ma spero di arrivarci se le gambe tengono. Ripartirò a settembre. Ripartirà a settembre, quindi quest'anno arriva a Roma, diciamo a luglio arriva a Roma e poi riparte a settembre. Dove si trova adesso? Sono a Capranica, tra Viterbo e Roma. Tra Viterbo e Roma, e dov'è? Sono qua in mezzo a un marciapiede davanti a un bar. Ah, è davanti a un bar. E lei nei bar entra e parla... Entro, e parla con la gente. E parlo con la gente, dico cosa faccio perché sono vestito in modo un po' così, che devo curioso. Essere visibile anche per le macchine che non mi saltino addosso, con lo zaino. Il problema è che intanto voglio dare un abbraccio di solidarietà a quel signore che ha parlato prima, mi ha stupefatto perché è stato umiliato dallo Stato. E questo non va bene, questo Stato non deve umiliare chi lavora, chi crea ricchezza e chi osserva e chi rispetta le autorità e tutto. Io sono stato pietrificato da cosa ho sentito. Comunque mi associo a questo signore, io sono andato in Sicilia come Marco Polo, nel 2006 abbiamo portato a dicembre 2006 11 progetti in regione, dopo 5 anni non mi hanno chiamato alla conferenza di servizio. Me lo ricordo, ce lo raccontava l'altra volta. Questa è l'Italia. Allora Bertolotto, facciamo una bella cosa, ci entra nel bar e ci... Purtroppo il bar... Sono 3-4 pensionati, ma non vogliono parlare con me. Prima sono stato con tre, perché mi hanno portato su qua a Capranica Alta, tre signori della Croce Rossa, guardi, volontari, fanno non le 20 ore alla settimana, ma hanno detto ne faremo 200, no? E continueremo a farlo, perché questo è un grande paese. Ed è stato per me stamattina il più bel saluto che potevo avere, perché non ce n'era uno che faceva una smorfia. Cioè la gente continua a crederci, perciò Stato, svegliati. Quel signore che urlava prima dalla Lombardia, perché dall'accento era lombardo. Sì, ha ragione. Bergamasco. Non siamo al tavolo delle carte qua. No. Allora, voglio... Leggere qualche messaggio che ci sta arrivando e che ci arrivano già da ieri. Su De Masi ci scrive Dennis da Padova via SMS, oggi anche qualche SMS, dice: questi sono veri eroi. Per 9 in punto, un ascoltatore, Giacomo, dice: vorrei dire che ho chiuso il mio laboratorio artigiano a causa della crisi, a causa della cancellazione dal regime dei contribuenti minimi, a causa della legge Fornero sulle partite IVA, a causa degli studi di settore, eccetera. Questo è quello che ci scrive Giacomo, e ci scrive un altro ascoltatore e adesso lo recupero. Oggi, 10 luglio 2013, dopo 13 anni, chiudo la mia azienda. Ed è quello che ci scrive Antonio. Ho anche da dire a chi invece nota come Daniele da Treviso, non si sentirà mai dire che le colpe sono anche di una classe imprenditoriale mediocre. Come al solito le generalizzazioni sono sbagliate, ci sono anche imprenditori mediocri, evidentemente, così come ci sono lavoratori mediocri. Fatto sta che c'è gente che ha deciso di investire la sua intera vita su un'azienda, mettendoci le proprie risorse. Il caso di De Masi è esemplare da questo punto di vista, mettendoci le risorse, la faccia e mettendoci la sicurezza personale addirittura, e si ritrovano in questa situazione. Sono molti anche i messaggi che ci arrivano sulla nostra bacheca Facebook. Allora, Leggiamo qualcosa. Marco Gagliardi, io al futuro non ci penso nemmeno più. L'orizzonte in cui ci obbligano a muoverci è la mezz'ora seguente. Abbiamo politici con una visione del paese e dei cittadini che si potrebbe definire demenziale. Si tolgono la giacca, e qua il riferimento è anche al Movimento 5 Stelle. Interrompono i lavori, non credo ci sia un aggettivo per poterlo definire con precisione. Ormai mi sembrano solamente marziani. Gianluca Merennoni dice: il problema è che non si sono ancora accorti che c'è un problema. Altri, molti ascoltatori legati o comunque sostenitori del Movimento 5 Stelle ci dicono: il PD e il PDL pensano solo ai loro interessi, agli interessi che ha fatto cospicue donazioni alle loro fondazioni. Gli unici che stanno cercando di fare qualcosa per l'Italia sono i grillini. Altri che esprimono solamente tristezza. Bruno da Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao. Volevo dire che secondo me lo Stato deve organizzare un'unità di crisi in ogni regione, perché io mi sono trovato anch'io a combattere con l'INPS per una pratica non mia, non presentata da me, ma affibbiata a me, 5 anni con una marea di improvvisati che sono solo buoni a dire che io sono il dottore, io sono il responsabile, io sono il mega direttore. Dopo 5 anni sono riuscito ad uscirmene, a fargli capire che no, la pratica non era mia. Addirittura uno di questi dottori, quando ha avuto, stesso lui, è riuscito a stamparsi la pratica che diceva che non era mia, nella maniera più assoluta, mi ha strappato il foglio di mano e l'ha stracciato. E la cosa è andata avanti per altri 2 anni, siamo al ridicolo. Grazie. Questo è solo l'INPS, uno dei tanti funzionari, delle tante istituzioni con le quali dobbiamo avere a che fare, perché non passano niente, nessuno di loro, non succede niente, 5 anni di persecuzione che nessuno paga. Allora, se ha voglia, Bruno, resti con noi, vediamo se riusciamo a riparlare con lei entro la fine della trasmissione, così ci racconta ancora un po' meglio. Fabrizio da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Guardi, io ho appena ascoltato la testimonianza dell'imprenditore che sta chiudendo. Devo dire che intanto spero che ci ascolti qualche politico, fare un semplice banale appello da cittadino. Perché... Ah, ecco Fabrizio, guardi, la interrompo, poi la faccio finire. Ah, ecco, voglio dire proprio questo: se c'è qualche parlamentare in ascolto, chiami pure, perché oggi parliamo di loro, ma non parliamo di loro e vogliamo parlare di quello che è successo ieri in rapporto a quello che effettivamente succede nel paese. Chiami pure, però. Ovviamente all'800 24 00 24 e ci parleremo come se parlassimo con un ascoltatore. Prego Fabrizio, finisca. Guardi, quello che è successo ieri nel paese è l'ennesima prova dello stato demenziale, come diceva l'ascoltatore su Facebook, dei nostri politici. A chiamarli ancora politici mi sembra anche un po' inappropriato, perché ormai, insomma, quello che hanno fatto ieri i grillini, premetto che io ho votato Movimento 5 Stelle e sono rimasto molto deluso, perché se veramente volevano fare qualcosa potevano allearsi con il meno peggio, e la manifestazione che hanno fatto ieri è solo un gesto simbolico, è l'ennesima prova che anche loro, essendo persone oneste, tutto quello che vogliamo, ma sono insomma un po' incompetenti, mi perdonino l'espressione. Io gli ho dato il mio voto, sono rimasto deluso, penso che non li rivoterò. Sono d'accordo con quello che ha detto ieri Grillo al Quirinale, perché Grillo purtroppo è vero quello che dice, lui è in mezzo alla gente, lui ascolta lo sfogo della gente, è sempre maggiore lo sfogo della gente, non è possibile più andare avanti. Io ho sentito anche i miei amici che sono all'interno di alcune circoscrizioni, sezioni anche del PDL, perché ho anche amicizie in questo, non significa che non le debba frequentare, anzi, mi fa pure piacere sentirli dal vivo, e mi dicono la stessa cosa, mi dicono qui c'è lo scontro di piazza, solo che loro intendono per scontro di piazza sempre riferito al discorso di Berlusconi e tutto, perché loro, per loro sembra che ormai sia importante solamente, perché insomma è il perno, il fulcro di tutte le loro attività, lecite o illecite che facciano. Quello che dice Grillo io sono perfettamente d'accordo, non credo che arriveremo a uno stato di violenza, ma i cittadini sono molto molto esasperati. Io le dico la mia esperienza personale e poi concludo. Sì. Io ho 42 anni, quasi 43, ho sempre fatto il salumiere, avevo una professione, insomma, il punto dove vivevo, dove lavoravo ha chiuso. Io mi sono trovato in questi ultimi 2 anni dal fare volantinaggio senza nulla togliere, al fare le pulizie ai condomini. Sono andato anche a raccogliere il ferro vecchio per un periodo, non a rubarlo, a raccoglierlo per strada, con la macchina per rimediare 20-30 euro. Io sono uno di quelli che, diciamo, sono tra i disperati. Io sono anche arrabbiato, sto mantenendo la calma, questa è una trasmissione con i toni molto pagati, mi fa piacere. Questo per carità, però lo stato del paese, io spero che ci ascolti qualche politico. Lei ha famiglia, Fabrizio? Lei ha famiglia, Fabrizio? No, io fortunatamente non ho famiglia, ma per 2 anni sono stato campato letteralmente dai miei genitori, che hanno una pensione di 800 euro e 550 euro. Mi hanno campato loro dignitosamente e non posso. Io ho smesso anche di fumare, per esempio, perché mi sentivo proprio, mi sembrava di rubare in casa mia per chiedere le sigarette per un vizio che è quel quale il fumo. Io sono uno di quelli veramente, diciamo, disperato, ma non sull'arrabbiato, disperato perché non so più come fare. Ora sto facendo le pulizie di condominio, a 42 anni, ho un mestiere in mano e non ho nessun problema, nessuna remora a farlo, ma cioè, voglio dire, se qui tutti perdiamo la pazienza, è veramente altro che scorta per i politici, perché poi i responsabili sono loro e siamo anche noi cittadini. Aspetta, un attimo. La interrompo perché questo è un elemento che, come al solito, va sottolineato, perché non è che, come dire, siamo esenti da queste responsabilità, insomma, come già accennava qualche ascoltatore prima via SMS e sulla bacheca Facebook. Non siamo esenti da questa responsabilità, non solo, diciamo, per questioni di comportamenti, ma anche perché molto banalmente votiamo noi, non è che vota qualcun altro, votiamo noi. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo. Cercate di essere abbastanza rapidi perché oggi voglio sentire, particolarmente oggi voglio sentire la vostra voce. Corrado da Roma, buongiorno. No, non c'è, sentiamo Antonio da Modena, buongiorno. Sono qua, buongiorno a lei. Eccolo. Io ho già telefonato varie volte, ho parlato con voi. Io non pago più niente, allo Stato non gli do più un centesimo. Io faccio fatica a tenere in piedi la mia ditta, piccolina com'è, perché c'ho da pagare un mutuo o da mantenere la mia famiglia. Perciò lo Stato aspetterà, perché questi signori qua, fin quando avranno del gas, se ne approfitteranno contro di noi. Loro stanno bene, fanno i fatti loro e ci si comportano così in Parlamento. In quel sistema di ieri è un complotto, non lo so cos'è, però se la gente paga, fin quando paga, loro se ne approfitteranno, non c'è nessun'altra ragione. Antonio, tra l'altro, potrebbe essere confortato in questa sua scelta da un paio di sentenze che sono arrivate, l'ultima nei giorni scorsi dal Veneto, che dice, insomma, è successo. Guardi, ad un imprenditore, l'avrà vista, no? Le dico una cosa, sentendo le altre persone di prima, mi veniva da piangere, perché non si può vivere in quel sistema qua, ci stanno ammazzando. Io ho fatto un gesto nel 2011, luglio 2011, non ci sono riuscito perché Milan mi ha fermato, ma se continua così lo farò, perché non si può vivere in questo sistema qua. Allora, Antonio, facciamo una cosa, resti con noi e non faccia no, quel no, gesto, non farò perché niente, ho la famiglia da mantenere io. Perché la vita, no, la vita prosegue oltre le aziende e oltre, no. Secondo me si ammazzeranno loro, io non mi ammazzerò mai più, non farò questa cosa. Io questo ci piace. Secondo me si ammazzeranno loro. Questo ci piace, no. Antonio. Questo ci piace, Antonio. Beppe da Verona, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io sono un piccolo imprenditore che ha avuto la fortuna in passato, ma la sfortuna oggi, di lavorare con la pubblica amministrazione, e si continua a sentire nei media che lo Stato sta pagando da mesi. Io vorrei chiedere a qualcuno se ha visto un centesimo, perché la mia piccola azienda aveva 6 dipendenti, oggi ne ha 2, per ovvi motivi, perché per mancanza di liquidità non riusciamo più a mantenere i ritmi di una volta e di conseguenza dobbiamo fare tutti dei sacrifici. Noi abbiamo certificato un credito presso il Ministero del Tesoro per una somma non molto elevata. Comunque il Ministero è stato prontissimo a fare il certificato del credito, ce l'ha mandato dopo 5-6 giorni circa, e Tommia meraviglia sul certificato di crediti già scaduti da un anno, pagamenti già scaduti da un anno. C'è gente che i pagamenti li aspetta molto più tempo. Mi aspetti solo un attimo, perché ho chiamato, ho detto, se c'è qualche parlamentare in ascolto ci chiami, lo tratteremo come un ascoltatore. Dobbiamo dire Vito dalla provincia di Brescia o possiamo dire Vito Crimi del Movimento 5 Stelle? Buongiorno. Buongiorno Alessandro. No, allora, sono Spezia. Vada. Posso parlare? Come no? Allora, io sono qui, sono in Parlamento e vorrei dire a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano che in questa occasione, in questa legislatura c'è uno strumento nuovo ed è il Movimento 5 Stelle all'interno del Parlamento e sta facendo, a differenza di come spesso viene dipinta l'attività del Movimento 5 Stelle come di mera protesta, quello che è stato per cui è stato mandato nel Parlamento. Come prima cosa stiamo denunciando e stiamo cercando di sputtanare in tutti i modi il trucco. E il trucco, anche il trucco del fare delle leggi che poi non trovano applicazione, come quella dello sblocco dei crediti verso la pubblica amministrazione, per il quale avevamo richiesto e avevamo trovato anche il modo per farlo, di utilizzare la Cassa Depositi e Prestiti perché aprisse delle linee di credito. Bastavano 10 miliardi in più in un fondo garanzia per moltiplicare e farli diventare 50 i miliardi a disposizione delle aziende. Ma serve a qualcosa il casino che avete fatto ieri? Scusi, adesso francamente. Ieri sarebbe passata inosservata, sarebbe stata una giornata normale di sospensione dell'attività dell'Aula del Parlamento come avviene in altre occasioni. Una normalissima giornata di sospensione dei lavori. Col casino che abbiamo fatto ieri siamo riusciti ancora una volta a svelare il trucco. Non era una sospensione per una riunione del PDL, era una sospensione per un problema politico grave della maggioranza che si regge su un accordo, si regge su un patto che prevede il salvacondotto per Berlusconi. È questo quello che noi denunciamo nel caso della giornata ieri. Il casino serve sempre. E siamo qui perché non deve passare l'immagine di un Parlamento che non fa niente. Perché le proposte ci sono, l'abolizione dell'IRAP totale per le aziende sotto i 10 dipendenti è pronta, è lì, e ci sono anche le coperture finanziarie, eppure non viene fatta passare, è alla Camera questa proposta. Perché? Perché probabilmente il governo si deve spendere per qualche annuncio. Guardi, facciamo una cosa, Crimi. Io adesso la saluto perché ho promesso che vi avrei trattati come ascoltatori. Quindi ho adesso chiamato come un ascoltatore attento. Perfetto. Adesso io la saluto perché so che deve andare in aula. Magari su questa questione anche dell'IRAP ci torniamo, perché appunto le proposte ci sono. Vediamo. Voglio vedere anche là, dal lato appunto della copertura finanziaria. Davide De Bellis, buongiorno. Buongiorno. Imprenditore, anche lei. È una storia abbastanza interessante la sua, che ho trovato abbastanza interessante, perché in realtà la cosa della quale lei si è rotto le scatole, diciamo, non solo come imprenditore, ma prevalentemente come uomo. Quindi che cosa ha fatto? La sua azienda resta nella Bergamasca, però lei la residenza se l'è presa in Svizzera. Esattamente. Purtroppo la mia azienda rimane ancora in Italia, perché ovviamente prima di fare un cambiamento così bisogna pensarci non una, non due, ma anche 3 o 10 volte. Però è un consiglio spassionato che faccio a tutti. Adesso stavo ascoltando la trasmissione, ho sentito parlare anche dell'imprenditore di Modena, poi anche quello del Veneto. Ragazzi, mi si agghiaccia, mi viene la pelle d'oca ad ascoltare determinate cose. Mi viene ancora più la pelle d'oca, adesso non voglio far polemica, quando sentiamo dire da un imprenditore di Modena che ha pensato di fare un determinato gesto e subito dopo sentiamo parlare un parlamentare che chiama per fare propaganda sul Movimento 5 Stelle. È una roba veramente ridicola, ragazzi. Adesso io non voglio far polemica, ma veramente siamo siamo veramente alla frutta. Non c'è, e ha deciso di prendere la residenza in Svizzera, sì, perché per questioni, banalmente per la classica questione fiscale, non ne poteva più depagare tutte, perché quelle tasse. In come Italia noi, la pressione fiscale è insostenibile, questo è in grado di dirlo chiunque, ma dall'imprenditore all'impiegato ovviamente. L'imprenditore lo sente di più perché poi è lui che si vede i conti da pagare allo Stato, e l'impiegato invece è l'azienda che ovviamente paga. Ovviamente De Bellis, lei viene più o meno, non dico quotidianamente, ma quasi avvicinato da quelli del, come si chiama, servizio investimenti, attrazione investimenti della Svizzera, e le dicono: guardi, chiuda baracca e burattini a Bergamo, certo, e venga qua, no? Certo, certo, certo, sono in grado di darti tutto il supporto possibile e immaginabile, e in tempi, credetemi veramente, che no, dire che sono veloci è utopistico, insomma. E lei non chiude, giustamente, perché sente un po' di responsabilità nei confronti, certo, anche dei suoi dipendenti. Abbiamo dei dipendenti, la nostra azienda vive comunque su dei rapporti personali con i dipendenti, pertanto comunque la decisione di chiudere baracca e burattini qua e portare tutto da oltre il confine è una decisione che comunque a livello di investimento può essere allettante, però comunque sia, sai, ci sono dei rapporti con delle persone che prima di prendere una decisione così vanno anche rispettati, insomma. Voglio sentire Mauro dalla provincia di Cremona, buongiorno. Buongiorno. Prego. Ma io vorrei soffermarmi più che tutto, perché se apriamo il discorso che una pubblica amministrazione ha dei debiti verso la propria cittadinanza, in più chiede anche le tasse, credo che sia uno scandalo. Ma mi soffermerei, se è possibile, più che tutto su noi stessi. Io quando vedo le piazze dei paesi europei, non l'ultima, quella dell'Egitto, dove milioni di persone, e soprattutto giovani, arrivano in piazza per protestare il loro malcontento e il disagio sociale che hanno, io mi ritrovo in un paese dove quando si vanno a fare manifestazioni di giovani non ne vedo. Quindi credo che in questo paese siamo tutti molto bravi a lamentarci, ma poi di fatti ne facciamo pochi. Nel senso, cioè lei dice, Mauro, Mauro dice bisogna andare in piazza. Io adesso la devo fermare, dice dobbiamo andare in piazza, dica solo un sì o un no. Sì, allora ci dobbiamo fermare per la viabilità. Io poi voglio ricoinvolgere Bertolotto e De Masi, che mi aiutino a tirare le conclusioni, un po' di conclusioni, perché la trasmissione non è ancora finita, anche delle storie che abbiamo sentito e che abbiamo raccolto oggi dai nostri ascoltatori. Ce ne sono altre in linea che voglio vedere se riusciamo a sentire di qui alla fine della trasmissione. 9 in punto. E che noia con questa storia! Se avessi chiamato un parlamentare non del Movimento 5 Stelle, gli avresti tappato la bocca come hai fatto con Crimi? Guardi, allora, non ho tappato la bocca a nessuno e ho detto che oggi, se avessero chiamato i parlamentari all'800240024, sarebbero stati trattati esattamente come gli ascoltatori. Crimi ha parlato per un paio di minuti, pure più della media di solito. Allora, De Masi, che è quello che ha parlato per primo e che ci ha raccontato la sua storia, mi aiuti a raccogliere un po' di cose, no? Perché qua in questo paese c'è anche chi invoca i fucili, chi dice molto semplicemente bisognerebbe scendere in piazza, bisognerebbe farsi sentire. De Masi. Guardi, vorrei, permettetemi di esprimere un paio di concetti molto sintetici. Io ho scritto di recente, perché tenga conto che io ho un aggravante in più rispetto ai miei colleghi e altri signori che hanno parlato prima, oltre a essere, tra virgolette, vittime di burocrazia e di malcostumi delle istituzionali, sono anche vittima di criminalità e lo sono da una vita, però in questa storia è troppo facile dire scappiamo, andiamo via, abbandoniamo tutto. Noi proveniamo da una generazione, i nostri antenati per avere la libertà, per costruire un paese libero hanno anche sacrificato la propria vita, non ci dimentichiamo, i partigiani nel nome di quella libertà, di quei valori primari, sono morti per la conquista di quei valori. Ora io voglio solo dire una cosa: noi non possiamo andare a dire scappiamo, vogliamo tutto, noi dobbiamo ricostruire questo paese. Tenga in considerazione che io, quando sono andato in comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo che mi hanno sparato, io avevo detto: signori, guardate, io voglio avere il diritto di avere paura. Lo Stato mi ha detto: De Masi, guardi, lei non si può permettere il lusso di arrendersi, di mollare, perché lei, siccome è un simbolo di questa terra, se passa il messaggio che lei si arrende, noi qui siamo persi tutti, e quindi la gente perde la speranza. La ragione dello Stato, la ragione delle istituzioni, la ragione del futuro dei miei cittadini, della mia terra e del mio paese, mi hanno fatto mettere in secondo piano il mio diritto ad avere paura e la mia paura di essere ammazzato, per cui io sono qui a metterci la faccia per dare una speranza. Certamente io non voglio essere un distruttivo di questo paese, io voglio cercare di dare il mio contributo per dargli una scossa positiva, perché non è scappando che noi risolviamo il problema, perché scappando noi consegniamo questo paese nelle mani di chi lo ha distrutto. Questo è un passaggio fondamentale. Il mondo dell'impresa, il mondo dell'economia la deve smettere di essere, come si dice, su quel pilone, su quel 3 metri sopra il cielo, per un utilizzo mio proprio di un termine. Deve rimettersi in gioco, girarsi le maniche e mettersi a combattere con i forconi, con quello che vuole, ma dobbiamo riprenderci la dignità di vivere un paese libero e democratico. Questo è il mio ragionamento, guardi, e spero che questo mio ragionamento possa rispondere alla sua domanda di concludiamo questo discorso. Chiarissimo De Masi. Bertolotto. Concordo con De Masi, due cose per il fare, perché qua non basta solo lamentarsi. Uno, le tariffe della green economy, che doveva essere la cosa che tirava un po' sul paese, sono date sul valore del macchinario per fare queste energie. Intanto i macchinari li compriamo all'estero, non li facciamo in Italia, i pannelli fotovoltaici, gli aerogeneratori, tutte queste cose qua. Io parlo del biogas di discarica, che è l'energia rinnovabile più nobile che ci sia, perché oltre a fare il kilowatt verde lo fa distruggendo un tossico. Ma che fa Bertolotto? Mi parla di bottega? L'aria la respiriamo tutti. Io facendo il kilowatt faccio anch'io energia con l'eolico e col fotovoltaico, però non distruggo un tossico nocivo. Voglio dire che i prezzi dei certificati verdi devono avere dei criteri valutativi non sul valore del macchinario che produce il kilowatt, ma sull'effetto, sul ritorno, che sono i posti di lavoro, che sono l'effetto salute, i vantaggi della salute, che sono i costi evitati nel non aver votato e non aver fatto le centrali nucleari, eccetera. Cioè ridiscutiamo su queste cose. Secondo, per l'industria che fa i macchinari per la manifatturiera, noi siamo secondi al mondo nel fare le macchine per produrre la pasta, per lavorare le plastiche, per lavorare il vetro, eccetera. Sa cosa fa? Adesso, se un'industria italiana deve cambiare il macchinario, che magari costa milioni e milioni di euro, se lo va a comprare in Germania, la ditta tedesca gli dice: vieni, compralo da me il macchinario qua in Germania, perché ti do anche il finanziamento all'1,5%. Perciò noi italiani perdiamo anche la possibilità di produrre macchine italiane da vendere agli industriali italiani, perché la nostra finanza ti chiede il 7-8%. Questa è una voce che io do all'industria italiana e lo do al ministro Saccomanni, che pensavo di sentire stamattina con voi, per dirgli: signore, fate velocemente dei sistemi che possano finanziare le aziende italiane, le quali possano lavorare. Quello che stanno facendo i tedeschi è una cosa scorretta, perché le banche tedesche non dovrebbero finanziare. Sfruttano il vantaggio e lo spread, voilà. Bertolotto, allora la interrompo, abbiamo ancora un paio di minuti e ho un paio di ascoltatori in linea, a partire da Antonio, che vi ho letto prima il suo SMS, che ci ha detto che ha chiuso l'azienda ieri, dalla provincia di Milano. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Che azienda era? Noi ci occupiamo di smaltimento di materiale contenente amianto, e lavoriamo nel settore a partire dal 2001. Adesso purtroppo le cose non vanno più bene come una volta, e si fa fatica per i pagamenti, c'è una pressione fiscale altissima, il costo dei lavoratori oramai non riusciamo più a sostenerlo. Nonostante ciò, gli adempimenti sono sempre tanti per le autorizzazioni, e quindi, anche se è stato un po' doloroso, però era una cosa che oramai non potevamo più portare avanti. Quanti dipendenti avevate, Antonio? Noi fino a un paio d'anni fa eravamo in 8 complessivamente, misti, italiani, stranieri, tutti insieme, non avevamo un problema di nessun genere, lavoravamo un po' dappertutto. Lombardia, fuori Lombardia, in trasferte varie, eravamo un bel gruppo, devo dire. Perché poi noi, facendo quel tipo di lavoro qua, siamo soggetti a spogliarci insieme, a entrare in area confinata insieme, perché è un lavoro particolare, e quindi ci deve essere un certo rapporto tra i lavoratori e il datore di lavoro stesso. Ora purtroppo, già due anni fa ho dovuto licenziarne tre, l'anno scorso li ho licenziati altri due, adesso siamo rimasti in tre. E ha chiuso. Alla fine ho detto anche a quei ragazzi qua, già da un po' di mesi a questa parte, cominciate a darvi da fare, perché purtroppo, lo vedete anche voi, è finita. Facciamo fatica per gli stipendi, facciamo fatica a pagare i fornitori, le tasse, comunque c'è tutto da versare. Ora già quest'anno ci sono pronti acconti e saldi da versare. Sono riuscito a spostare ad agosto, però già a partire da agosto ogni due mesi arriva un bel F24 di 3.500 euro e io devo sbattermi in giro per portare a casa dei soldi e andare a pagare. Non c'è andare a pagare, fare. Naturalmente, non c'è niente da fare. Grazie Antonio. Per chiudere, solo una domanda per Bertolotto. Dove arriva oggi nella sua camminata a piedi? E guardi, sa che non so ancora il nome di quel paese, lì mi scuso. Comunque qua a 15 chilometri. A 15 km. Voglio dire una cosa, il paese ce lo riprenderemo col voto. Facciamo una rete tra noi che siamo quelli che ragioniamo e poi quando ci sosteniamo intanto questo governo, perché bisogna sempre sostenere il nostro governo e il nostro presidente. Vabbè, nelle cose buone che può fare per il passaggio, perché poi tutto finisce. Quello vediamo. Bertolotto in politica. Al voto nuovo ce lo riprenderemo il paese. Grazie Antonio, grazie Bertolotto. Grazie a Nino De Masi per essere stato con noi, complimenti, in bocca al lupo, le siamo vicini. Grazie anche a Davide De Bellis, chiedo scusa ad Antonio da Vicenza e a tutti gli altri che non sono riuscito a far intervenire. Grazie come sempre ad Alessandro Marco Tulli in redazione, preziosissimo, così come Peter Bescapè in regia. Noi ci sentiamo domani, naturalmente. Ricordati! Mancano 81 giorni all'aumento dell'IVA. Nove in punto.